perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Italia condannata dalla Corte di Strasburgo, non protesse una donna e il figlio minacciati dall'ex marito di lei, nonostante le ripetute denunce, e il figlio è stato ucciso. Inchiesta Consip, secondo i PM Tiziano Renzi si fece promettere dei soldi per i suoi buoni uffici, non ho nulla da nascondere, dice lui, mi interroghino. Migrante interviene l'Europa, ricollocamenti o ci saranno sanzioni, vanno realizzati centri di detenzione, dice Bruxelles, aiuteremo l'Italia a realizzarli. Tesseramenti PD dopo il caso di Napoli, anche la Puglia e Caserta. San Severo denuncia un eurodeputata, 150 immigrati irregolari in fila per iscriversi al partito. Disoccupazione stabile in Italia, cala lievemente quella giovanile, inflazione europea al 2%, la banca centrale riflette su eventuali interventi. Disabili gravi in Sicilia, negli elenchi degli assistiti ci sono anche dei morti, denuncia il presidente Crocetta. Falso, replicano da Misilmerido e ne risulterebbero 15. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati all'Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è come sempre il numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere, potete scriverci anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, www.facebook.com/effettogiorno, siamo ovunque come sentite. Iniziamo dall'inchiesta Consip, andiamo con la nostra Raffaella Calandra. Buongiorno Raffaella. Sì Simone, c'è il dirigente Consip che sta parlando e così evita il carcere, c'è il test che racconta la cena tra gli imprenditori accusati di sistematica corruzione e il padre di Renzi, e poi ci sono intercettazioni, pizzini e una domanda soprattutto: fin dove arriva quel massimo livello politico raggiunto, per dirla con Alfredo Romeo, l'immobiliarista napoletano finito ieri in carcere? Dietro questo quesito si sviluppa ora la seconda fase dell'inchiesta sulla centrale degli appalti della pubblica amministrazione, che rischia di far tremare il Partito Democratico dopo aver ricostruito come la corruzione fosse diventata la politica d'impresa delle società di Romeo, che con le tangenti, scrivono i magistrati di Napoli e Roma, provava a sconfiggere quel complotto di cui si sentiva vittima, a quanto riferisce Marco Gasparri, dirigente Consip, ricompensato per il suo aiuto con 100.000 euro. È ora tra i protagonisti dell'inchiesta, insieme al fiorentino Carlo Russo, che avrebbe svolto il ruolo di facilitatore presso le più alte sfere, a cominciare dal padre dell'ex premier Tiziano Renzi, forse quel T indicato in uno dei biglietti ricostruiti pezzo a pezzo dai carabinieri del NOE accanto alla cifra di 30.000. Ci fu una cena riservata tra Tiziano Renzi, Russo e Romeo per parlare di strategie, racconta il commercialista Antonio Mazzei, e anche di questo dovrà dare la sua versione dei fatti ai PM il padre dell'ex premier. È un incubo, spero che quando finisca abbia lo stesso risalto, chiede. Intanto l'indagine procede anche sul fronte partenopeo, dove nel registro degli indagati finisce pure l'ex governatore Stefano Caldoro per una gara al secondo policlinico in cambio di 10 borse di studio. Ma sia a Roma che a Napoli l'inchiesta è appena all'inizio. Allora grazie a Raffaella Calandra per questi aggiornamenti, e i problemi che riguardano il Partito Democratico sono anche quelli che riguardano il fronte delle tessere dopo il caso Campano, che tra l'altro si è arricchito oggi di un nuovo elemento, perché 10 dirigenti del PD di Caserta hanno inoltrato un ricorso alle commissioni di garanzia denunciando gravi irregolarità nel tesseramento cittadino. Ci sono problemi anche in Puglia, ci arriveremo tra poco nel nostro giro per l'Italia. Intanto andiamo a parlare di Europa, che interviene sui migranti. La Commissione europea ha presentato oggi nuove misure per intensificare e accelerare i rimpatri dei migranti che non hanno diritto all'asilo in Europa, come concordato al vertice europeo di Malta all'inizio di febbraio. Saranno azioni ad effetto immediato, dice il commissario europeo alla migrazione Avramopoulos. Tra i concetti chiave presentati oggi dalla Commissione europea, anche quello di detenere i migranti irregolari che si oppongono all'identificazione e al rimpatrio. Tema questo che, secondo il commissario europeo Avramopoulos, non solo allenterà la pressione sui sistemi di asilo degli Stati membri, ma permetterà di mantenere adeguate capacità di protezione per chi ha realmente bisogno e soprattutto scoraggerà nuovi viaggi della speranza. Nella raccomandazione di Bruxelles si esortano poi i paesi a ricollocare i migranti in maniera consona, altrimenti l'Europa procederà all'apertura di procedure di infrazione, cosa ancora non accaduta ma che, dice Avramopoulos, potrebbe accadere nei prossimi mesi. But Italy and Greece remain under pressure. Italia e Grecia, continua il commissario europeo alla migrazione, restano sotto pressione. Fino ad oggi infatti non hanno rispettato le attese. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

abbiamo proprio direttamente estratto dal suo discorso di circa 13 minuti quanto ha detto appunto il ministro Calenda a questo proposito, il ministro per lo sviluppo economico. Dicevamo, l'occasione è stata questa 22esima edizione dei premi Leonardo, ovvero premi dedicati a quegli imprenditori industriali italiani che non solo trainano il nostro paese, ma che tengono alto, diciamo così, il buon nome del Made in Italy in generale in giro per il mondo. Premiati quest'anno Alberto Bombassei, presidente della Brembo, già insomma nell'organico di Viale dell'Astronomia come responsabile tra l'altro anche delle relazioni industriali. Poi è stato premiato anche un imprenditore che si chiama Francesco Casoli, noto soprattutto per i cronisti parlamentari perché è stato a lungo appunto in Montecitorio nelle file di Forza Italia. Lui ha una grossa azienda che produce cappe da cucina, la Elica SPA. Hanno vinto anche due piccoli grandi colossi del settore agroalimentare, da un lato la Masi SPA che produce tra le altre cose un amarone molto famoso, la Valpolicella, e poi il gruppo Veronesi che tra le altre aziende ha anche l'Aia e la Negroni. Veniamo appunto a Calenda, è stato l'intervento più interessante, se vogliamo, quello che più si è discostato dalla retorica, senza nessun torto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi con il suo discorso ha chiuso insomma la cerimonia. E Calenda appunto, come ricordavi all'inizio, lo possiamo sentire in un passaggio del discorso, ha detto queste parole. Per creare lavoro e creare reddito non esistono scorciatoie, non esistono l'invenzione di redditi, l'invenzione di lavori, l'invenzione di bonus. Esiste costruire le condizioni di competitività affinché le imprese possano assumere. E se noi proviamo a tracciare scorciatoie, ripetiamo gli errori del passato. Grazie dunque a Giorgio Stamatopoulos anche per questo aggiornamento. Dall'Abruzzo in piazza a Roma, i comuni terremotati, quelli del Teramano soprattutto, arrivano a Montecitorio. Teresa Trillò, buongiorno. Buongiorno Simone, sì. Allora, a Roma oggi sono arrivati circa 2.000 persone dall'Abruzzo, dai comuni delle province di L'Aquila, Teramo, Chieti e Pescara. E ci sono di fatto due manifestazioni, una in piazza Santi Apostoli e l'altra qui di fronte a piazza Montecitorio, dove ci sono circa 300-400 persone in attesa della rappresentanza dei sindaci che sta incontrando la Commissione Ambiente della Camera con anche i parlamentari abruzzesi. Sono qui e protestano tutte queste persone perché chiedono maggiore attenzione da parte del governo, soprattutto anche maggiori risorse, perché fino ad ora le risorse stanziate sono circa 100 milioni, non sono sufficienti perché i danni stimati dalla regione Abruzzo ammontano al momento a oltre 500 milioni di euro. E quindi sono i sindaci stanno chiedendo di modificare anche il decreto per aumentare le risorse. E qui davanti in uno striscione hanno scritto: terremoto, neve e frane ci fanno meno paura della vostra indifferenza. Quindi l'Abruzzo chiede di non essere dimenticato. Per il momento è tutto, restituisco la linea. E grazie a Teresa Trillò. Non dimentichiamo l'Abruzzo, come sapete, così come non dimentichiamo l'Umbria e le Marche. Stiamo facendo un viaggio attraverso i comuni terremotati, non solo attraverso i comuni, ci arriveremo più avanti come sempre in effetto giorno. A chiudere ci occupiamo della vicenda di Mary Collins, la donna irlandese vittima di atti di pedofilia da parte di sacerdoti in Irlanda, che come sapete ieri si è dimessa facendo un gran rumore, dalla commissione pontificia che si occupa di queste cose. La nostra Katia Caramelli ha intervistato su questo tema il gesuita tedesco padre Hans Zollner, che è il direttore del Centro per la Protezione dei Bambini e fa parte anche della commissione pontificia. Sentiamolo. Ha vissuto molti momenti di frustrazione, bene, che io capisco molto bene, perché dal punto di vista di una vittima dovrebbero subito cambiare le cose e in un unico istante, purtroppo questo non funziona. Quindi è la lentezza la cosa che l'ha scoraggiata di più? La lentezza è quello che lei vede come una resistenza di inerzia, come lo ha chiamato in alcune delle sue interviste di non seguire quello che il Papa e le norme stesse dicono di come si dovrebbe agire e come si dovrebbe ad esempio accogliere le vittime sia all'interno delle strutture locali della Chiesa sia anche a livello della Chiesa universale. E questo per una vittima ovviamente è un riaprire le ferite e questo alla fine non ci ha più fatta. Questi problemi che la signora ha evidenziato, che lei dice la capisco, esistono realmente quindi? Capisco dal suo punto di vista che le cose vanno troppo lentamente. Lei stessa dice che bene, tutto sommato il bilancio della Commissione è positivo e dice lei anche che bene, per il cambiamento di atteggiamento, non solo di norme, ci vuole molto tempo e dobbiamo avere pazienza nella educazione, nella formazione. Io stesso ho sempre detto che questo non è una cosa che si cambia da un giorno all'altro, abbiamo bisogno di molto tempo. Possiamo dire che alcune cose hanno già cambiato. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Andremo in Sicilia per la vicenda di questa crescita anomala dei disabili gravi e quindi della necessità di assistenza H24 e quindi di questa maggiore spesa pubblica necessaria. Parleremo delle tessere del Partito Democratico in Puglia con a quanto pare decine di immigrati irregolari in fila per iscriversi al PD e poi andremo ad Urgnano, un altro di quei casi, e siamo nella Bergamasca, di sindaci che si vedono scavalcati dai prefetti, vengono assegnati altri 50 profughi e il prefetto non gli dice niente. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati dell'inchiesta Consip, della condanna all'Italia dalla Corte di Strasburgo per un caso di violenza su una donna, di immigrazione con l'Europa che interviene, prospetta il suo piano, di disoccupazione, di inflazione e anche delle politiche della Banca Centrale Europea. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Iniziamo dalla Sicilia e dalla provincia di Palermo, da Misilmeri per essere esatti. Buongiorno alla sindaca Rosalia Stadarelli, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, eccoci qua. La vicenda qual è? Beh, in parte ne abbiamo già trattato ieri, è questa vicenda dei disabili, della crescita anomala dei disabili gravi in Sicilia. Disabili gravi che hanno bisogno di un'assistenza H24, 24 ore su 24. La crescita in Sicilia negli ultimi due anni è stata del 140%, con un piccolo, abbiamo sentito nelle scorse puntate con il sindaco di Giarre, con un picco del 3500% a Giarre, dove in due anni i disabili gravi sono diventati appunto questo numero, sono diventati 72. Cosa succede a Misilmeri? A Misilmeri ha rivelato ieri il presidente della regione Rosario Crocetta, viene garantita l'assistenza anche a persone che sono morte. Falso. In questo momento io sono seduta nel tavolo della mia stanza, intanto è sbagliato parlare di comune di Misilmeri, ma parliamo di distretto sociosanitario. Distretto sociosanitario, sì, dove il comune di Misilmeri è il comune capofila. Un distretto formato da 11 comuni, il comune di Baucina, di Bolognetta, di Campofelice di Pitane. Vabbè, adesso non me li elenchi tutti, 11 comuni, ho capito, 11 comuni, 11 comuni, 11 comuni, ok. Siamo 11 sindaci seduti ad un tavolo, insieme alle assistenti sociali che si occupano anche loro del caso dei disabili, e siamo amareggiati dalle affermazioni che il presidente Crocetta ha fatto nei nostri confronti. Cioè, quindi non viene garantita, domanda secca, non viene garantita l'assistenza ai morti? Cioè, non ci sono persone pagate per questo? No. E lo dicono tutto, vergogna, assolutamente no. La disinformazione con cui si muove il presidente Crocetta è disarmante. È disarmante. Noi stiamo verbalizzando come distretto, le ripeto, la presenza degli 11 sindaci, quanto successo, quanto apprendiamo solo dalle cronache, perché nessuno ci ha informati ad oggi, nessuno ci ha informato di niente. Stiamo procedendo perché con queste carte andremo tutti in procura. Andrete in procura a denunciare Crocetta, a querelarlo? Che no, a fare a querelarlo, perché se noi veniamo accusati di dare servizi, assistenza ai morti, mi pare che non è possibile. Senta, il distretto, mi scusi Statarelli, ok, abbiamo capito. Detto ciò, le cronache di queste ore ci raccontano che nel distretto socio-sanitario di Misilmeri ci sono più disabili gravi che in Piemonte, che nell'intero Piemonte. Ma noi non possiamo stabilire perché il Piemonte ne ha di meno, non stiamo valutando i tipi di servizi che il Piemonte dà ai disabili. Senta, noi la nostra valutazione è una valutazione oggettiva. Mi conferma un'altra cosa, Statarelli, abbia pazienza, perché le cronache giornalistiche di queste ore sono state quindi io ho chiamato lei perché è da lei che voglio sapere le cose, no? Allora, qua leggo da un articolo di qualche giorno fa della Repubblica. Allora, c'è un assistito perché ha un deficit della memoria, un assistito perché è obeso e un altro perché ha, aperte virgolette, turbe del comportamento, assistenza H24. È vera questa cosa oppure no? Assolutamente no. Non lo stanno dicendo le assistenti sociali che sono al mio fianco, che sanno di cosa stiamo parlando. Chiaro? Quindi parliamo di patologie non previste. E quindi qua tutti gli assistenti sociali, che sono poi i tecnici, i professionisti che si muovono all'interno dei comuni, si stanno ribellando a queste affermazioni. Non è vero, quindi. Le assistenti sociali dicono che non è vero. Che poi siete tutti là in questo momento in riunione, ho capito bene, no? Sì. Perché la situazione è diventata molto grave, le accuse sono false e gravissime e non, veramente mortificano il lavoro che viene fatto all'interno dei vari comuni. E volevo semplicemente puntualizzare che il distretto diventa un passante dell'assessorato famiglia della regione Sicilia. Devo dirle, però, le ripeto, Statarelli, a me la cosa che più impressiona da giornalista, da persona che guarda le cose, per così dire, da una certa distanza, quello che mi impressiona sono i numeri. Insomma, è vera o no? I numeri vengono fuori, a noi arriva una nota diramata dall'assessorato famiglia che viene divulgata a tutti i distretti dell'isola, dove ben chiarisce le diverse tipologie per considerare i disabili gravissimi. Queste tipologie da parte dell'assessorato. Quindi lei dice applichiamo, mi ascolti, la confusione sta in questo. Poi c'è un organo, l'accertamento delle condizioni di dipendenza vitale, del grado di non autosufficienza del soggetto disabile, è di competenza dell'unità di valutazione multidimensionale del distretto sanitario e non nei comuni o del distretto socio-sanitario. Sono i medici. Quindi allora stiamo risalendo piano piano la catena delle responsabilità e di questo la ringrazio. Grazie Rosalia Statarelli, sindaco di Misilmeri e a capo Misilmeri, che è a capo del distretto socio-sanitario. Elena Gentile, della Direzione Nazionale del Partito Democratico, europarlamentare, Commissione Occupazione e Affari Sociali, candidata alle europee nella circoscrizione Sud, era stata candidata, adesso è europarlamentare. Buongiorno Gentile, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, la chiamiamo perché ci spostiamo nel nostro giro per l'Italia in Puglia, perché questo caso delle tessere PD, deflagrato a Napoli e che oggi vede anche notizie che arrivano da Caserta, dove alcune persone del Partito Democratico denunciano nuove gravi irregolarità, dalla Puglia lei ha parlato di 150 immigrati irregolari in fila, di quelli, immagino, della famosa baraccopoli di Rignano, insomma della zona di San Severo, in fila per prendere la tessera del Partito Democratico. Probabilmente erano lì in quella baraccopoli che è nell'agro di San Severo, ma il dato, diciamo, politico più complessivo che ci deve far riflettere. No, ma prima del dato politico, Gentile, però mi scusi, prima del dato politico, il dato sostanziale di questa cosa, perché questo è un punto importante, no? Mi è giunta questa informazione, ovviamente ho ritenuto giusto e opportuno sollevare questo caso, così come sono stati sollevati altri casi, altri episodi, tesseramento online sproporzionato, come nella città di Barletta, più iscritti online che non iscritti fisicamente presenti nei circoli di partito. Insomma, stiamo rischiando di trasformare una bella pagina della politica di un partito che ha reso per davvero contendibile la sua leadership in un'altra bagarre, in un'altra cruenta contrapposizione. E dentro una ferita profonda, che è quella della scissione ormai avvenuta, che vede Gentile, diciamo, alcuni... mi scusi però abbia pazienza. Fuori di retorica quanti casi di questo genere ci sono, insomma? No, perché scusi la brutalità, dalla retorica è molto vicina invece alla realtà. Vi è la situazione di Lecce, di Biceglie, di Barletta, di Trinitapoli, cioè sono circoli che vanno in qualche maniera messi sotto la lente di ingrandimento per verificare per davvero se questa fase, diciamo, delicata sia stata vissuta in ossequio alle regole di un partito, perché chi chiede di militare in un partito deve rispettare le regole. Ci sono regole puntuali, circostanziate, e che vanno rispettate, e che vanno rispettate. Ma lei sospetta, Gentile, che siano gli emilianiani a questo punto? Non so, è un po' difficile come parola da usare. Non voglio personalizzare, non mi piacciono gli appellativi, le definizioni che comunque dovrebbero lasciare il campo al confronto sulle idee, sul programma, sulla visione di paese, anche di Europa. Io non ho sospetti, ovviamente, collegati ad un candidato piuttosto che un altro. Sollevo il problema proprio perché sono preoccupata rispetto, a situazioni, ritengo ormai numerose, che possono inficiare la normalità di un percorso che è dentro, le regole di un partito così complesso, così difficile anche da conservare. Io non voglio attribuire responsabilità ad alcuno, sollevo il problema. Da qualunque parte arrivino questi nuovi iscritti o tesserati, stanno minando, una pagina importante della politica del paese. Grazie Elena Gentile della Direzione Nazionale del Partito Democratico, europarlamentare, per essere stata con noi. Io non so all'ascoltatore che dice, ormai anche Radio 24 vive di non notizie, urlate, sensazionali, bugiarde. Abbiamo raccontato un fatto vero, quello è la vicenda siciliana, e a chi ci chiede perché vengono fatte queste cose, non so se si riferisca al Partito Democratico, alla vicenda del tesseramento del Partito Democratico, a questa è la Sicilia, chiaramente è per dar lavoro a qualcuno, probabilmente. Si suppone almeno questo, per dar lavoro a qualcuno che faccia assistenza a disabili che non esistono o esistono. Questo lo verificheremo e probabilmente lo verificherà la stessa Regione Siciliana o la magistratura. Il gioco delle tessere del PD si fa semplicemente per ottenere la maggioranza e vincere il congresso, cioè una lotta eventualmente interna al partito. Efrem Epizoi, sindaco di Urgnano, provincia di Bergamo, ed è qua che ci spostiamo nel nostro giro per l'Italia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Un'altra delle persone che si è trovata a un certo punto con il prefetto che decide di collocare 50 profughi in più in paese, un paese di 10.000 abitanti, e non viene minimamente avvertito, ho capito bene? Beh, esattamente così. Ieri mattina, nell'incontro in prefettura con alcuni sindaci della zona, sono stato informato mio malgrado che in una struttura privata di Urgnano è stato dato il via libera all'accoglienza in transito di ulteriori 50 migranti. Consideriamo che ad Urgnano abbiamo già da circa 4 anni circa 47 richiedenti asilo. Giusto per chiarire, Epizoi, che per voi, mi sembra di aver capito, non è un problema, cioè lei non è uno che dice no all'accoglienza, chiudiamo il paese, tutti fuori, eccetera, eccetera. Cioè, lei dice nei limiti si accoglie, però cavoli, sono il sindaco, almeno una telefonata di cortesia. Qui io ieri durante la riunione sono stato piuttosto duro, mi dispiace, anche con il prefetto, e ho espresso tutto il disappunto mio e dell'amministrazione che rappresento, perché ritengo che il nostro territorio, Urgnano e non solo, stia facendo molto per rispondere a questo dramma, perché è un dramma quello di cui stiamo parlando. Però mi sembra di essere in prima linea e senza nessuno dietro. Perché il sindaco, almeno sto parlando per me, in questo momento si trova a gestire quasi da solo un problema emergenziale che prima o poi dobbiamo capire che forse non è più emergenziale, ma ormai è strutturale. Dobbiamo cambiare radicalmente il modo di affrontare questa problematica. Io ieri ho detto ognuno è giunto il momento che ognuno faccia il suo, con grande senso di responsabilità. Allora, io non sono per le barricate, ma ritengo che un sindaco debba essere preventivamente avvisato. Almeno avvisato, dice lei. Grazie Efraime Pizzoi, sindaco di Durgnano, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, poi il nostro giro tra i comuni colpiti dal terremoto e poi una storia che ci ha incuriosito, perché voi girate tutti quanti per le strade, lo sapete che a volte è uno slalom tra le produzioni dei nostri amici cani. Ebbene, a Domodossola stanno pensando al test del DNA, ne parliamo tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia e i nostri titoli. L'Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo, non protesta una donna e il figlio minacciati dal marito di lei. L'inchiesta Consip, secondo i PM Tiziano Renzi, si fece promettere dei soldi per dei buoni uffici. Non ho nulla da nascondere, dice lui, mi interroghino. Sui migranti interviene l'Europa, ricollocamenti o ci saranno sanzioni. Vanno realizzati centri di detenzione, dice Bruxelles, aiuteremo l'Italia a farli. Tesseramenti PD, dopo il caso di Napoli anche la Puglia e Caserta. A San Severo denuncia un eurodeputata, l'avete sentito, 150 immigrati irregolari in fila per iscriversi al partito La Borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro per l'Italia ci porta adesso ad affrontare un argomento un po' più leggero. Si fa per dire, perché poi so che questo tema, il tema delle cacche dei cani, scalda molto gli animi. Lucio Pizzi, sindaco di Domodossola, e siamo in Piemonte, in Val d'Ossola, della quale Domodossola è il centro principale. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Allora, da quel che ho capito, volete raccogliere o far raccogliere le cacche dei cani che vengono lasciate in giro e fare l'esame del DNA. Ma sì, guardi, la situazione ormai purtroppo è diventata inaccettabile. Come lei ha detto, è un piccolo problema, ma è anche un grande problema. I cittadini si lamentano continuamente, hanno ragione, basterebbe un po' più di civiltà e l'idea che la città è un bene di tutti per evitare alcune problematiche. Purtroppo però il problema c'è, molto sentito, e quindi ho convocato un comitato direttivo che racchiude i dirigenti e il comandante del Corpo di Polizia Municipale per capire quali sono le azioni che possono essere messe in campo. Una che potrebbe essere effettivamente molto efficace è l'esame del DNA dei cani attraverso la saliva. Questo evidentemente permetterebbe di porre praticamente fine a questa problematica, ecco. Quindi di fatto si tratterebbe di fare questo: prima di tutto fare una banca dati del DNA di tutti i cani di Domodossola, esatto, che già, come lei ben sa, per legge devono avere un microchip, sì, quindi devono essere dotati di microchip. A questo punto bisognerebbe fare un prelievo della saliva, di modo che sia realizzata una banca dati che li colleghi in maniera precisa e puntuale, e poi quando purtroppo si trova la deiezione del cane, si potrebbe immaginare che un operatore ecologico affiancato da un componente del Corpo di Polizia Municipale effetti un prelievo, chiaramente seguendo tutta la procedura prevista dalla normativa e dal regolamento che metteremo in atto, e a questo punto è chiaro che 2 più 2 fa 4, perché avendo una banca dati il risultato è immediato. Allora, un'operazione che costa tanto, Pizzi. Ma guardi, stiamo valutando, come dicevo, siamo un attimino sul nascere dell'iniziativa. Ho fatto già alcune ricerche, effettivamente ci sono dei costi che potrebbero essere di qualche decina di migliaia di euro del comune, a secondo del numero di cani. Bisogna capire un attimino che cosa riusciamo a mettere in campo, che per esempio ho visto che a Malnate, faccio un esempio, una città della... Sì, colgo l'occasione perché qualche ascoltatore ce lo segnala, sì, se ne è occupato il nostro Maurizio Melis di Malnate, del caso di Malnate, nel suo Smart Cities, Smart City, potete anche andare a riascoltare sul nostro sito la trasmissione. Certo, Malnate ha una dimensione, Domodossola ne ha un'altra, insomma. Certo, a Malnate però per esempio è stata messa in piedi una convenzione con la società che si occupa dello smaltimento rifiuti, perché chiaramente avrebbe un impegno inferiore se la città fosse un po' più pulita. Faremo alcune valutazioni, però le dico, siamo molto decisi a mettere in campo qualunque operazione dovesse essere messa in campo. E chi viene beccato paga anche il test, suppongo, no? Assolutamente sì. Assolutamente. Quindi sanzione e testa. Tempi per una roba di questo genere, sindaco? Ma guardi, adesso noi ci riuniamo il 6 marzo. Io sono piuttosto operativo e la mia squadra anche. Quindi penso che, credo che in qualche settimana faremo tutte le analisi del caso sulla procedura e darò indicazioni alla segretaria generale del comune di cominciare a immaginare una bozza di regolamento. Contatteremo anche il servizio veterinario, poi è chiaro che bisognerà dare un po' di tempo ai cittadini per mettersi in regola una volta immaginata in maniera precisa la procedura. Certo. Per cui posso immaginare, credo, un arco di tempo di 6-8 mesi. 6-8 mesi per arrivare a regime. Sì. Magari ci risentiamo, grazie. Molto volentieri, grazie. Lucio Pizzi, buona giornata. Grazie. Sindaco di Domodossola, da questo argomento un po' più leggero passiamo a qualcosa di più importante, oggettivamente importante, che è la situazione dei comuni colpiti dal sisma e anche dal maltempo, in questo caso l'ondata di maltempo. Prosegue il nostro giro tra le difficoltà. Abbiamo con noi il Andrea Guizzetti, che è il vice sindaco di Montorio al Vomano e siamo in Abruzzo. Buongiorno vice sindaco, benvenuto. Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori. Allora, non siamo in linea con il sindaco, il quale in questo momento all'interno di un incontro a Montecitorio, perché come abbiamo raccontato prima ci sono una serie di sindaci abruzzesi che stanno protestando in questo momento, stanno manifestando comunque il loro disagio e la loro difficoltà. Ci dica come vanno le cose in paese. Sì, i sindaci sono all'interno di Montecitorio, io sto con tutta la gente qui alla manifestazione all'esterno e stiamo praticamente manifestando le enormi difficoltà che abbiamo, perché tutto il territorio, tutta l'Abruzzo, tutto il territorio provinciale, il comune dove io sono vice sindaco, Montorio al Vomano, a seguito del sisma del 24 agosto e poi i successivi, e in modo particolare dopo l'evento sismico del 18 di gennaio con una neve che insomma è stata storica, circa 3 metri e mezzo di neve, abbiamo delle difficoltà enormi e purtroppo sia i decreti che sono stati pubblicati sia le ordinanze non riescono comunque a risolvere i problemi. A distanza di 6 mesi quasi dal primo sisma siamo completamente fermi e ci sono interi paesi che stanno morendo. Sì. Voi avete sfollati nel vostro paese, Guizzetti? Sì, tenga conto, il nostro comune è di 8.400 abitanti, abbiamo circa 1.000 sfollati, che è un numero importantissimo per un paese come il nostro. È un ottavo della popolazione. Sì, Ascolti, dove sono ospitati al momento? Allora, alcuni si sono praticamente organizzati con l'autonoma sistemazione, col contributo della protezione civile, molti, circa 300 e più, sono nelle strutture alberghiere lungo la costa, come per tutti gli altri comuni anche. Abbiamo 30 secondi, Guizzetti. Cosa serve adesso? Cioè, dovesse dire quello che serve al mio comune in questo momento è questa cosa qua. Cosa? Al mio comune servono subito delle norme e la liquidità per poter affrontare comunque l'emergenza e soprattutto il problema più grande che abbiamo sono le attività produttive che sono in ginocchio e le scuole. Noi abbiamo delle scuole che hanno degli indici di vulnerabilità bassissime e abbiamo bisogno dell'aiuto della protezione civile per i moduli provvisori. Questo è quello di cui avete bisogno subito. Grazie ad Andrea Guizzetti, vice sindaco di Montorio al Vomano, per essere stato con noi. E siamo in Abruzzo, proseguiremo anche domani e anche nei prossimi giorni il nostro viaggio tra i comuni colpiti dal terremoto e non solo tra loro. Andremo, come abbiamo detto, anche sulla costa, dove ci sono gli albergatori che stanno ospitando in questo momento molti degli sfollati. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.